ora ci colleghiamo con un compagno per parlare un po' della quattro giornate di DAX. Mancano meno di 2 settimane, insomma, alle 4 giornate dal 16 al 19 marzo che animeranno Milano il ricordo di Davide Cesare ucciso dai fascisti il 16 marzo del 2003. Abbiamo parlato prima con un compagno della rete degli studenti medi che era abbastanza entusiasta sia della presenza numerica appunto del corteo di Fridays for Future e della loro volontà di creare uno spezzone all'interno del corteo nazionale del 18 e anche di presenziare insomma al momento di piazza che ci sarà nel quartiere ticinese il 16 marzo. Ora invece ci colleghiamo con un compagno che insomma proverà a darci una panoramica riguardo le giornate di DAX partendo appunto dal percorso di costruzione dell'assemblea. Ciao, ci senti? Ciao Pasqua, ciao, sì, vi sento. Ciao, ciao, benvenuto a Radio Tagadà. Allora, niente, appunto, come detto, ti ho fatto una bella introduzione e se abbiamo voglia di parlare appunto delle quattro giornate di DAX sarebbe interessante farlo partendo dal percorso di costruzione che c'è stato, perché più che insomma una volontà di riunirsi in assemblea per organizzare le giornate, queste giornate sono state veramente costruite a partire già dall'anno scorso. Sì, esattamente. Ovviamente l'invito è partito dall'assemblea che costruisce il ricordo di Davide ogni anno, però la particolarità del ventennale, così come fu quella del decennale a suo tempo, è stata che la preparazione di questi eventi sono iniziati ormai quasi un anno fa. Infatti subito dopo il ricordo dell'anno scorso c'è stata tutti hanno capito la necessità e anche la volontà, la bellezza di trovarsi molto prima per costruire un evento che fosse, oltre che grosso nelle dimensioni, anche alto nella sua qualità. Quindi circa da maggio e poi con più frequenza, da maggio dell'anno scorso e poi con più frequenza a partire da settembre dopo l'estate, abbiamo cominciato a trovarci una volta ogni 2 settimane e sempre nello spirito della condivisione e dell'allargamento della partecipazione a questo percorso è stato deciso collettivamente di fare ogni assemblea di costruzione in uno spazio sociale diverso, da nord a sud della città, la parte ovest, est, senza anche escludere associazioni, sindacati, eccetera, eccetera. Quindi non solo spazi sociali, occupazioni, ma anche diverse entità che infatti adesso fanno attualmente parte dell'assemblea. Dall'inizio di quest'anno abbiamo aumentato il ritmo, direi anche vertiginosamente, delle assemblee, degli appuntamenti collettivi per preparare questo appuntamento. Infatti l'assemblea è diventata settimanale da gennaio in poi e questo ci ha permesso appunto di costruire queste 4 giornate. La composizione è conseguente, quindi troviamo dentro, a parte diverse identità politiche, ma anche diverse realtà che si occupano di tematiche diverse, quindi l'eterogeneità di questa assemblea è un po' la sua forza. E tant'è vero che appunto tutte le giornate saranno caratterizzate in maniera diversa e sono un po' il riflesso di questa diversità che caratterizza il consesso collettivo di questa organizzazione. Sì, come hai detto tu, una differenza rispetto al percorso del decennale, che è stato anche molto intenso a suo tempo, è stata appunto questo girovagare tra gli spazi di Milano, cercando di coinvolgere il più possibile tutte le realtà e andando anche oltre le differenze di visione e di analisi politiche, cercando di trovare un'unità di intenti per il ventennale di DAX, che ricordiamo ha appunto come obiettivo principale il portare la memoria e il consegnarla anche alle generazioni future. Quindi anche per questo prima ci siamo fatti una chiacchierata col compagno della rete studentesca e eravamo veramente molto entusiasti nel sentire lui preso bene sia al corteo di Fridays for Future alla carica insomma che ci è riuscito a trasmettere via radio con la sua intervista in propositivo per le giornate di DAX. Allora, delle giornate Radio Nadurto si sta occupando in maniera abbastanza ampia e sappiamo più o meno che appunto ci sono 4 giornate, ci sarà la prima che è il ricordo di DAX in ticinese il 16 marzo e poi ci sarà la giornata di sport popolare il 19. Abbiamo anche fatto prima un'intervista con la redazione di Ondadurto. Quello che magari volevamo un po' parlare, se hai voglia con te, era un po' rilanciare le giornate del 17 e del 18 perché hanno un po' quella valenza proprio importante e di rilancio anche dell'internazionalismo riguardo a questa tematica di DAX. Il 17 ci sarà il giorno dell'Assemblea internazionale e poi ci sarà il corteo del 18. Se hai voglia di spiegarci un po' come saranno strutturate queste giornate, sia l'Assemblea e soprattutto come sarà la composizione, ad esempio, del corteo, cosa vorremmo comunicare quel giorno per le strade di Milano con il corteo nazionale. Certo, volentieri. Allora, dunque, partendo da venerdì 17 marzo, come hai detto te, giustamente, è stata organizzata, verrà attuata un'assemblea che vuole avere un respiro nazionale ed internazionale, in particolare su come si sviluppi l'antifascismo e purtroppo correlativamente il fascismo in varie parti d'Europa e soprattutto che ostacoli incontra nelle varie parti dei vari paesi l'opposizione al fascismo, quindi tutti i meccanismi repressivi che caratterizzano le diverse realtà. L'assemblea quindi avrà inizio nel tardo pomeriggio, verso le 17:30, avrà inizio e si dividerà dopo un momento di saluti, di benvenuto e di spiegazione delle tematiche, che sono quelle che vi sto dicendo io. L'assemblea si dividerà in due tavoli di lavoro. Dal titolo Antifascismo e lotte sociali, il primo, e Repressione, il secondo, e appunto andranno a sviscerare in maniera più approfondita questi due aspetti, quindi la lotta nei vari posti e gli ostacoli che essa incontra. Dopo poi un momento di convivialità comune, una cena tutti e tutte insieme. Affronteremo poi l'ultima parte, dalle 21:30 più o meno. Affronteremo l'ultima parte dell'assemblea, che sarà sostanzialmente una grossa plenaria condivisa, che sarà divisa sostanzialmente in due parti. La prima parte, il più approfondita, ma anche veloce possibile, veloce per dare spazio ad altri interventi, non per altro. Di restituzione delle tematiche dei tavoli e la seconda parte, quella veramente conclusiva, cioè quella degli interventi e dei contributi dei vari paesi d'Europa che hanno un po' come filo rosso tematico la costruzione di un internazionale antifascista che sia nel nome che nelle pratiche che nella teoria vuole essere in contrapposizione all'internazionale nera. Questa internazionale antifascista nel suo inizio vorrebbe essere una condivisione delle testimonianze di gruppi che arriveranno appositamente sia da altre parti d'Italia, per esempio Roma, ma anche da molte altre parti d'Europa. Avremo gruppi che viaggeranno dalla Grecia, che verranno dalla Spagna, dalla Francia e dalla Germania, più altri vari paesi in giro. Quindi questo sarà un po' di previsione dell'assemblea del 17 marzo, quindi è un'assemblea propriamente internazionale di ampio respiro. Il giorno dopo, il sabato 18 marzo, invece, sarà un po' il momento culminante della 4 giorni col corteo nazionale internazionale antifascista e anticapitalista. È un corteo che nelle tematiche politiche riprende un po' quello che fu lo slogan decennale, quindi che abbiamo riutilizzato quest'anno, antifascismo e anticapitalismo, e proprio su questa linea teorica si è diviso il documento politico in vari paragrafi, credo ne abbiate parlato, comunque il documento politico è di ampio respiro, tratta tantissimi temi con appunto lo slogan antifascismo e anticapitalismo, dalla lotta ambientale alle lotte sui luoghi di lavoro, dalle lotte all'interno del mondo della scuola, fino per esempio anche le lotte di genere, fino anche a una proposta di costruzione di un antifascismo sociale che dovrebbe essere un po' riassuntivo di tutte queste istanze e di contrapposizione appunto anche all'organizzazione sociale predominante, cioè il capitalismo. Questo documento verrà riprodotto poi fisicamente in piazza, i vari spezzoni del corteo che comporranno il corteo sono il riflesso di questo documento, non per dividere come aree politiche il corteo, perché non avrebbe senso data anche la composizione dell'assemblea, ma per rafforzare e dare valore alle istanze singole di ogni realtà o macro realtà o tematica appunto portata avanti da diverse realtà cittadine e non. Quindi questi spezzoni si snoderanno nella parte nord della città, il corteo si trova, cioè il concentramento inizia alle 14:30 in piazzale Loreto, ci daremo il tempo di raggrupparci e di sistemare tutto il corteo, che molto probabilmente crediamo sarà anche abbastanza massivo nella partecipazione, e ci snoderemo per le vie della parte nord di Milano e quella parte lì, da Piazzale Loreto verso nord, e andremo a portare in piazza quelle istanze che appunto ci caratterizzano. Quindi un forte focus sarà messo sulla tematica del diritto all'abitare, quindi della crisi abitativa che caratterizza Milano e della soluzione dell'auto-organizzazione dal basso, che potrebbe essere la soluzione per riappropriarsi di questo diritto. Ci saranno spezzoni che parleranno di ambiente, crisi climatica e di come questo sistema non possa essere la risposta perché è il problema. Ci saranno spezzoni che parleranno di sport popolare accessibile a tutte e tutte senza criteri di esclusione, quindi anche una visione di sport diversa da quella dominante. Lo spezzone per esempio dell'antifascismo che andrà a portare diverse istanze che le raggruppa un po' tutte come risposta all'attuale organizzazione, eccetera, eccetera. Ciò che dice il documento, sostanzialmente reso visibile nella piazza. È significativa anche la scelta della zona del corteo perché è la parte nord che sta venendo gentrificata fortemente da tutti quegli interessi speculativi immobiliari che fondamentalmente creano dinamiche di emarginazione delle classi sociali più marginalizzate, per l'appunto, e una forte speculazione che sventra sostanzialmente i quartieri popolari. Quindi anche il posizionamento geografico del corteo è significativo di per sé. Questa sarà un po' la giornata del 18 marzo. Perfetto, abbiamo parlato dell'assemblea, quindi di un momento importante, insomma, anche di confronto con i compagni che vengono dall'estero, la struttura del corteo, quindi specifichiamo che non sarà un corteo per aree politiche, ma per aree tematiche, questo appunto non per Esatto. creare una divisione, ma per in realtà cercare di trovare un'unità di intenti, anche di contenuti che vengono portati in piazza. Noi vi invitiamo allo spezzone Sport Popolare, dove proveremo a costruire un primo momento di opposizione contro Milano Cortina, e poi il giorno dopo, se volete, vi blacchiamo noi rugbisti e rugbiste al Parco Lambro, ma ci sarà anche un momento conviviale, questo momento maggiormente conviviale del sabato sera è legato alla campagna Benefit 130.000, e quindi la sera ci sarà il concerto. Se hai voglia di dirci due parole appunto sul concerto che sarà Benefit per i compagni che sono stati condannati in seguito alla notte nera di Milano a risarcimento appunto di 130.000 euro, se ci dici due cose appunto su questo concerto qui e chi si esibirà, e poi ti lasciamo andare. Certo, allora, ci sono alcuni artisti che sono, per esempio, gli artisti di punta saranno Ice One, Giancane, gli ultimi, ma non solo loro, ce ne saranno tanti altri. La scaletta è molto nutrita, ovviamente sono tutti dettagli che si possono rinvenire e trovare sulla pagina Instagram e sul blog daxresiste.org, però ecco, i nomi di punta saranno un po' questi. E altri in aggiornamento, potrebbero esserci delle sorprese. La cosa importante di questo concerto, io credo, sarà che, come tutte le nostre iniziative di tutte le realtà, i proventi, i soldi, i ricavi non andranno alle persone, ma andranno a quella campagna 130.000, che è sostanzialmente la campagna di sostentamento, di aiuto per i compagni che sono il compagno che è stato condannato poi per i fatti dell'ospedale San Paolo e deve risarcire 130.000 euro allo Stato, e ogni mese lo Stato gli preleva un quinto dello stipendio, mettendo anche loro a prova la semplice sopravvivenza. Inoltre, questa condanna potrebbe, qualora non venisse in vita, non venisse colmata da questo compagno, potrebbe trasferirsi sui figli, e quindi diventerebbe sostanzialmente un vero e proprio ergastolo pecuniario anche dopo la vita. Quindi, per evitare tutto ciò e per anche parlare di come lo Stato si sia accanito su delle persone che quella sera sono state sostanzialmente picchiate brutalmente da polizia e carabinieri, per rivendicare quindi una certa pratica solidale, abbiamo deciso che il ricavato di questo concerto andrà a questa campagna 130.000 per aiutare una persona e insomma per manifestare appunto la solidarietà in maniera pratica oltre che discorsiva. Bene, perfetto. Noi ti ringraziamo, ti salutiamo da Radio Tagadà e più in generale da Radio Onda d'Urto e come al solito, come diciamo noi, ci sentiamo in radio e ne parliamo anche in radio delle iniziative, ma soprattutto ci vediamo in strada e ci vedremo, in strada sicuramente il 18 marzo nel corteo. Noi ti salutiamo e a presto. Un abbraccio. Vi ringrazio, vi saluto anch'io, un abbraccio a voi. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.